Non ho parole, non vuole star. Senti, mio amico, volarvi dico. Ma che t'ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto, tutto è volare. E di nacorlo, di nacorlo, vorrà, vorrà, ma voglio andare. E non volare, senti, mio amico. Ma che sei matto, che sei matto, che sei matto, che sei matto, matto, matto, matto. No, Leporello. Signore. Vien qua, facciamo pace. Prendi. Cosa? Quattro doppie. Ah, sentite. Per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ciavezzate. Non credete di sedurmi pari come le donne a forza di dannari. Non parliam più di ciò. Ti basta animo di far quel che io ti dico. Pur che lasciam le donne. Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che se son per me necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che spiro. Non lo vedete mai, naturale più basso e più benigno. È tutto amore che io la sono fedele verso l'altra è crudele. Io che in me sento si estesa sentimento. Vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno il mio buon natural. Chiamano inganno. Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste? Odi! Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira? Io? No! E non hai veduto qualche cosa di bello caro il mio Leporello? Or io con lei vuo tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito. E perché non potreste presentarmi col vostro? Han poco credito con genne di darrango, gli avidi signorini, sbrigati via! Signor, avete ragione! Finiscila, non so proposizioni! Sei quella che adorerai, Maria, per te. Sei gran gonzo, ascolta bene, quando costai qui viene il tuo cuore ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia, poi con bell'arte cercate ecco condurla in altra parte. Ma signora! Non più repliche! E se poi mi conosce? Non ti conoscerà se tu non vuoi, zitto, e la fai tu dici, vai! Eccomi a voi! Vediamo che farà, che imbroglio! Quanto mi dispiace! Vi fuggirete più? No, Musa Bella! Sarete sempre mio! Sempre! Carissima! Carissima! La porremi di gusto! Mia Venere! Ma per voi tutto poco! Io tutto cenere! Il vivo si riscalda! E non mi dannerete! No, sicuro! Giuratevi! Lo giuro a questa mano che bacio con trasporto! E poi dei nomi! Ehi, sei morto! Vai che la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son queste, ora cantiamo. Dobbiamo amico tesoro, da Dio. Che trovarlo dobbiamo. Quel culo parla. Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova. Se non fa il masetto. Viva là! Non rispondere. Animo schioppo al muso. Viva là! Non è solo ci vuol giudizio, amici. Non mi voglio scoppi. Sei tu masetto? Appunto quello. E tu? Non mi conosci. Il servo sono io di Don Giovanni. Giovanni. Le porrello, servo di quell'indegno cavaliere. Certo, di quel briccone. Di quel uomo senza onore. A dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco col costor per trucidarlo. Bagatelle, bravissimo masito, anch'io con voi munisco per parlare a quel bimbo di padrone. Ma udite un po', qual è la mia intenzione? Metà tiro in qua vadano, e gli altri vadano là, e pian pianillo cerchino, lontan non fia di qua, no, lontan, lontan non fia di qua. Se un uomo e una ragazza passeggiano per la piazza, se sotto una finestra fare all'amor sentite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite, il mio padron sarà in testa e un cappello, con candidi pennacchi, e addosso un gran mantello, che spara a fianco e là, e spada al fianco e là, e spada al fianco e là, e spada al fianco e là, e spada al fianco e là. Se un uomo e una ragazza passeggia per la piazza, se sotto una finestra pari alla voce sentite, ferite, ferite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite, ferite. Metà di voi pavadano, gli altri vadano là, e pian pianin lo cerchino, lontan non via di qua, no, lontan, lontan non via di qua. Andate, vale presto, andate, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto, vale presto. Tu sol verrai con me, tu sol verrai con me, verrai con me, verrai con me. Noi stai dobbiamo il resto, e già vedrai cose, cose, cose. Noi stai dobbiamo il resto, e già vedrai cose, cose, cose. E già vedrai cose, cose, cose. E già vedrai cose. E già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è. Zitto, lascia che io senta. Ottimamente, dunque. Dobbiamo ucciderlo? Sicuro! E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle? No, no, voglio ammazzarlo, ma farlo in 100 brani! Hai buone armi? Cospetto, offri questo moschetto! E poi... questa pistola! E poi? Non basta! Basta certo! Il moschetto! La testa mia! Tacilo, sei morto! Questo per ammazzarlo e questo per farlo in brani! Villano bastardon! Certo da cani! La testa mia! E le spalle! E il petto! Ti sentire Oh Dio, Zerlina! Zerlina mia! Soccorso! Che cosa è stato? L'iniquo, lo scelerato, mi ruppe l'ossa ai nervi! Oh, poverata me! Chi? Leporello! O qualche diavolo che somiglia a lui! Crude, non c'è desio! Che con questa tua pazza gelosia ti ridoresti a qualche brutto passo! Dove ti duole? Qui! E poi? Qui e ancora qui! Oh, e poi non ti duole altro! Duolmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano! Via, via, non è gran mal! Il resto è sano. Vien, te ne bevo a cosa, purché tu mi prometta di essere vengenoso. Io ti guarirò, caro mio sposo. Mio ben, stiamo qui un poco finché da noi si scosta. Ma che crepi, adorato mio sposo? Nulla, nulla. Certi riguardi, io vedesse il lume è già lontano. Ma come da così? foste liberarmi. Rimanti, anima bella. Non lasciarmi.

mio tesoro intanto. Andate, andate a consolar. Ed a Virgilio era pianto, cercate di asciugare. Cercate, cercate, cercate. Sospiri. questa è buona, or lasciala cercare. Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonza caccia di ragazze. Avrei voglio un po' di sapere com'è finito l'affar tra le Porello e Don Elvira, se gli ha avuto giudizio. Altri volete in faccia il precipizio. E adesso, ehi, le Porello! Chi mi chiama? Non conosci il padrone? Così non conoscessi? Come Birbo! Ah, siete voi, scusate! Cos'è stato? Per cagion vostra io fui quasi occupato! Ebben, non era questo un onore per te! Signor, vedo! E via, via, vien qua, che belle cose ti devo dire! Ma cosa fate qui? Vien dentro, lo saprai! Di tante storielle ti dirò un'altra volta, pur la più bella ti vo' solo narrare! Donne Scalcerto! E dunque io, una fanciulla bella, giovine galante, per la strada incontrai. La vado presso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole. Dico poche parole, essa mi piglia, sai per chi? Non lo so. Per le Porello. Per me? Per te. Ah, va bene. Per la mano essa allora mi prende. Ma ancora meglio. Ma carezza, ma abbraccia, caro il mio le Porello mio caro. Allora mi accorsi che era qualche favella. Oh, maledetto! Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento senza fuggire, mi metto e pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto. E mi dite la cosa con tale indifferenza? Perché no? Ma se fosse costei stata mia moglie. Meglio ancora! Parlato? Oh, qualche anima sarà dall'altro mondo. Chi mi conosce a fondo? Ah, si sciocco! Chi varà? Chi varà? Qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore non è questa la statua? Legge un poco quell'iscrizione. Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna. Leggi, dico. Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste? Lo tremo. Vecchio buffonissimo! Digli che questa sera lo attendo a cena al meco! Che pazzia ma mi fa? O dei mirate! Che terribile piace mi dà! Par vivo, par che senta e che voglio parlare! O so, va là! O qui ti ammazzo e poi ti seppellisco! Piano, piano, signore! Ora ubbidisco! O stata gentilissima del gran commendatore! Padrone, mi trema il cuore, non posso terminare. Finisci là, non è petto, ti metto questo ciara, ti metto questo ciara. Che pizio, che capriccio, che gusto, che spazzetto, io sento mi gelar, lo voglio far crepare, lo voglio far crepare. O statua gentilissima, benché di marmo siate, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardare, che seguite a guardare. Fuori, fuori, hey! No, no, no, no, attendete, attendete. Signor e padron mio, guardate ben, non io, con noi cena, ah, che cena questa, ah, Buffone, guardate, guardate, guardate il corporone! E che leggio, guardate, leggio, guardate, leggio, guardate! Ora marrone a testa, e fa così, così. The statue of the commandant in the mausoleum has accepted the Don's invitation to dine. Cesare Siepi is the Don. Geraint Evans, Leporello. Nikolai Giselev is the statue. In the next scene, we will hear Teresa Sitch Randall, Donna Anna, with Jan Pierce as Ottavio, trying to tell her that the libertine Duke will shortly be brought to justice. And they will be avenged. And he then begs for Donna Anna's hand in marriage on the morrow. She declares she loves him, but cannot think of such things in these moments of sadness. We soon hear her great aria, Non mi dir bel idol mio, by Miss Stitch Randall. Then after this aria and a brief pause, we will be taken to the banquet hall in the Duke's palace, where he is entertaining four of his lady friends, and the orchestra plays that familiar aria from Mozart's The Marriage of Figaro. Teresa Stitch Randall, Donna Anna, Jan Pierce, Don Ottavio, Cesare Siepi the Don, Elizabeth Schwarzkopf, Donna Elvira, Nikolai Giselev, Commendatore, Geraint Evans, Leporello. Calmatevi, Dio mio, di quel braldo vedrei puniti i bravi vicessi, vendicati sarem. Ma il padre fortivo convien chinare il ciglio a volere da ciel. Respira, o oh cara, di tua perdita amara, fio domani se vuoi dolci compenso. Questo cor, questa mano, che il mio teneri amor. Di dite punti in si tristi momenti. E che vorresti con i dugi novelli accrescere le mie pene crudele. Oh, mi spiace allontanarti un dì. darà, io mi voglio divertir. Le panella presa in tavola, santissima servir, santissima. Da che spetta i miei darà, io mi voglio divertir. Voi sarate amici cari, già che spendo i miei danari, io mi voglio divertir, io mi voglio divertir. Bravi, cosa rara! E ti pare del bel concerto? Conforme, conforme al vostro merito. Ah, che piatto saporito, ah, che piatto saporito, ah, che piatto saporito. Ah, che barbaro appetito, che bottoni da gigante, mi è proprio di salire, mi par proprio di nel vedere i miei bottoni, li fa proprio di svenir, li fa proprio di svenir. Ah, che barbaro appetito, che bottoni da gigante, nel vedere i miei bottoni, li fa proprio di svenir, di svenir. Ah, che barbaro appetito, li fa proprio di svenir, che bottoni da gigante, li fa proprio di svenir. Gli par proprio di svenir, gli par proprio di svenir. Piatto! Servo! Evviva le litiganti! Versa il vino! Eccellente Marcimino, questo è il pezzo di fagiano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano. Sta mangiando quel marrano, fingerò di non capire. Questa poi la conosco purtroppo. Debolello! Don mio! Parla schietto, mascalzone! Non mi lascia una fusione, le parole poveri, le parole poveri. Mentre mangio, fischio un poco, non so fa. Cos'è? Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco, e lo voglio anch'io provar, e lo voglio anch'io provar. Si eccellente il cuoco mio, si eccellente, e lo voglio anche provare. Brava! Brava! se ti piace, mangia con me. Questo ti farò, dici, dici, dici, viva le femmine, viva il bambino, sostene gloria l'umanità. Sostene gloria l'umanità. Questo ti farò, viva le femmine, viva il bambino, viva sostene gloria d'umanità, sostene gloria d'umanità, d'umanità, d'umanità, sostene gloria d'umanità. Che grido, che grido, che grido, che grido, che sta mai, va a vedere, che cosa sta. Che grido di amato, che bello, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signor, per carità, guardate fuori di qua, lunghi sasso, uomo bianco, capannone, piacello, io manco, se vedeste che figura, sentiste come va? E non capisco niente, parlo! Cos'è fatto in verità, in verità, in verità? Ah, sentite! Vai combatte! Ma che piacere! Ma che dico! Oh! Ma che! Ah! Ecco! Per togliermi il nemico, alla fine lo stesso andrò, io stesso! Non lo più vedere l'amico, ma mi nasconderò. Thank you.

ti sei la canzone.